e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, eccoci ritrovate, la coppia, già proprio adesso stavamo parlando di dizione, di come si pronunciano certi termini. La coppia si ricompone, primo giorno d'estate, che meraviglia, nonostante il caldo io sono contentissima, primo giorno dell'esame di maturità. Le tracce sono uscite, a quest'ora probabilmente quasi tutti avranno fatto la loro scelta fra analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, si saranno messi a lavorare sulla loro prima prova. C'è grande fermento da parte soprattutto delle famiglie, so che già ieri, Nico, avete affrontato molto attentamente questo tema. Penso che è intervenuto anche un amico, un compagno di liceo di mia sorella, che ha dato la maturità nell'anno in cui è saltata, perché la suora aveva letto. Ma dai. Sì, avevano avuto le tracce, per cui li hanno beccati e hanno saltato la prova di italiano. È una scelta importante quella del tema, che dà il via a questo rito di passaggio fondamentale per i nostri ragazzi. In questa prima prova c'è anche una sorpresa per noi di Cuore e Denari, fra poco ve la sveliamo. Allora, sì, è vero, è una bella sorpresa e parlavamo di scelte, delle tracce, e a proposito di scelte, oggi nella parte di Cuore parleremo di scelte alimentari. Sono sempre di più diffuse scelte di stili alimentari particolari ricercati, spesso le scelte che si fanno a tavola si legano a particolari fasi della vita, o magari scegliamo per principi etici, filosofici, religiosi. Insomma, parleremo di vegani, vegetariani, flexitariani, onnivori, carnivori, crudisti, chiamateci e raccontateci perché avete fatto la vostra scelta. 800 24 00 24, se ne ho così dimenticato qualcuno, presentatevi voi. Esatto, allora intanto prima di andare alla nostra rassegna stampa e all'alzata del velo sulla sorpresa di questa mattina, vi anticipo anche invece che per quello che riguarda l'ulteriore approfondimento di Denari ci occupiamo oggi di un tema che è molto importante per molti potenziali pensionandi, pensionati. È partita l'operazione Ape Sociale e quindi vi racconteremo tutte le modalità per fare richiesta, vi rifaremo un po' l'elenco di tutti i requisiti che è necessario soddisfare per averne diritto, per cui partiamo, perché anche stamattina piatto ricco mi ci ficco. Eh sì, anche perché di cibo parleremo tra poco in qualche maniera. Allora, la borsa intanto è negativa, non perdo neanche tempo a raccontarla perché insomma quando vedo il segno meno dappertutto non abbiamo neanche grande soddisfazione nel raccontare l'andamento dei mercati. Meno 0,6% Milano alle 11:30, racconteremo tutti i dettagli di questa giornata. Invece dobbiamo tornare, e non ce l'aspettavamo di farlo proprio oggi, sulla maturità, perché tra le tracce con le quali in queste ore si stanno cimentando i nostri ragazzi, ai quali facciamo di nuovo tutti i nostri auguri, e alcune tracce sono molto belle, altre decisamente inaspettate come la poesia di Caproni, per l'elaborazione del saggio breve socio-economico è stato proposto, pensate, un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore lo scorso 18 novembre. E fin qui uno dice vabbè, insomma, adesso perché vi dovete celebrare? L'aspetto che ci ha fatto sorridere di soddisfazione stamattina è che questo articolo sul tema delle nuove tecnologie e lavoro porta la firma di un grande amico di Cuore e Denari, il nostro inviato speciale nel mondo delle curiosità finanziarie, che noi scomodiamo quasi sempre ogni giovedì per investire informati, ma oggi abbiamo dovuto anticipare di un giorno. Enrico Marro. Enrico, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, a te. Il suo articolo è stato pubblicato, ve lo dicevo appunto, il 18 novembre scorso, si intitolava Allarme ONU, i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano. Adesso ve lo racconteremo, e però prima di andare al contenuto del pezzo, Enrico, mi chiedo che effetto faccia essere fonte di ispirazione per la maturità 2017. Ah, mi sento un po' impropriamente messo a fianco a Foscolo, Leopardi. Tra l'altro, forse avete provato a collegarvi anche con loro prima, ma non siete riusciti. Esatto, erano impegnati in questo momento. Sono impegnati. Sì, è stata una sorpresa anche per me, una sorpresa assoluta. Adesso non so con che criteri vengano scelti. Evidentemente, comunque, questo tema, grande tema della tecnologia, della sostituzione dell'intelligenza artificiale, dell'industria 4.0, è il tema del momento, Enrico. Molti convegni si stanno appunto attrezzando anche per parlarne, mettono insieme anche giuslavoristi, direttori delle risorse umane, oltre che gli imprenditori, naturalmente il mondo sindacale, perché ci sono tante forze coinvolte in questa rivoluzione, questa nuova rivoluzione industriale che ci riguarda tutti da vicino. E allora raccontacelo un po' questo pezzo, che cosa raccontavi, che cosa avevi indagato, perché in realtà è un pezzo che analizza un po' uno scenario mondiale, no? E quindi non parla esattamente di quello che sta succedendo in Italia, per cui chissà anche i ragazzi come staranno sviluppando questa traccia, ma ce lo racconti, perché noi tra l'altro di lavoro ci occupiamo tantissimo con Nicoletta e tutto quello che riguarda l'evoluzione anche delle nuove professioni ci interessa molto direttamente. Dacci anche qualche spunto magari da approfondire prossimamente. È interessantissimo come tema. L'articolo in questione parlava di un importante report dell'ONU che in sostanza diceva come potesse essere più pericoloso per i paesi emergenti l'arrivo dei robot. Questo perché sappiamo che molte produzioni industriali sono state spostate dai paesi occidentali, dai paesi sviluppati, ai paesi emergenti come Cina, Messico, India, proprio per via della manodopera a basso costo. Ora, questa manodopera a basso costo naturalmente è messa a repentaglio dall'arrivo dei robot, che sono più economici, non si stancano mai, sono facilmente programmabili e così via. Più in generale però il tema è molto affascinante, perché oltre a questa ricerca dell'ONU ce n'è una molto interessante della Banca Mondiale, che si chiama Digital Dividends. Pronto? Sì, siamo appesi alle tue parole. Oh, gentilissimi. Che raccontava quali sono le professioni più a rischio, e sono soprattutto quelle, diciamo, medie, quelle intermedie, perché quelle ad alta specializzazione e alta remunerazione, come manager, professionisti e tecnici, sono sostanzialmente in riparo, così come alcune a bassa specializzazione e bassa remunerazione, come per esempio le classiche badanti. Ci sono invece tanti lavori rutinari che rischiano di essere sostituiti dalle macchine o disintermediati con piattaforme digitali, lo e sappiamo quindi qualche benissimo. Qualche esempio lo hai fatto nell'articolo? Ci sono receptionist, commesse, sappiamo bene il pericolo che corrono i postini con i droni, che sono già in azione, ma anche edicolanti, postini, taxisti, sappiamo benissimo quali sono le polemiche legate a parte Uber, ma anche esatto le auto che si guidano da sole e non solo. Assolutamente, ma ci sono appunto due competenze su cui bisogna investire molto, dice questa ricerca della Banca Mondiale, e sono quelle relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e questo vabbè, lo sapevamo, ma soprattutto quelle che la Banca Mondiale definisce competenze cognitive e socio-emozionali, cioè non rutinarie. E cioè qualche cosa che potremmo tradurre come pensiero critico, capacità di risolvere problemi complessi, creatività, abilità nel comunicare in modo empatico. Ecco, se questo tipo di competenze tipicamente umane vengono unite a un'avanzata competenza digitale, ecco che abbiamo un lavoratore umano che non corre assolutamente il rischio di essere sostituito dai robot. Quindi bisogna considerare in maniera intelligente il mix di lavoro uomo-macchina, no? Un mix innovativo. Esatto. Enrico. Perché poi alla fine i robot sono, tra virgolette, stupidi, nel senso che vanno programmati da un essere umano. Per questo i lavori che loro riescono a fare, riusciranno a fare, saranno quelli più rutinari, ma non certo quelli in cui bisogna improvvisare, bisogna trovare soluzioni impensabili, bisogna avere appunto, come dicevo, una grande capacità e creatività nel comunicare in modo empatico, nel risolvere problemi complessi e nell'avere un pensiero critico. Certo. Proprio quello, guarda, per tornare all'inizio del nostro discorso, quello a cui in sostanza la maturità si rivolge, cioè il giudizio finale della maturità su uno studente che ha compiuto il suo percorso scolastico e che dovrebbe arrivare con questo bagaglio professionale. Enrico, grazie per essere stato con noi. Abbiamo approfittato appunto della stretta attualità per tornare a disturbarti. Lo ricordo, questa mattina fra le tracce di maturità per l'elaborazione del saggio socio-economico è stato proposto questo articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, portava la firma di Enrico Marro. Allarme ONU, i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, ma naturalmente occhio anche ai dettagli perché lo scenario al momento non è così in maniera dirompente e negativo. Detto questo, ci ritorneremo magari per fare un focus specifico sull'Italia a breve, Enrico, per cui sbizzarrisciti a trovare anche delle curiosità su quello che sta succedendo nel nostro paese, perché torniamo ad invitarti volentieri. Grazie. Bene, posso dire di un'altra mia ricerca personale, per cui al 100% posso dire che nessun robot potrà mai sostituire le conduttrici di Cuori e Denaro. Bravo, bravo. grazie mille, Enrico. Quanto lo amo. Hai visto, uomo. È vero, è delizioso, un grande amico da tantissimi anni. Adesso intanto c'è il traffico, intanto che ci gongoliamo un po' dietro a questo complimento. E siamo in diretta Facebook. Esatto, a tra pochissimo. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta... Cuore e denari. Quando si hanno figli si ha sempre una famiglia. Sono loro la priorità, la responsabilità. E un uomo... Sentitelo bene? ...deve assolverla. E lo fa anche... L'avete se riconosciuto? Si gesto, sicuramente tanti di voi sì, era Gus, è Gus Fring, il super cattivo di Breaking Bad. L'hai vista tu? Una serie, Deborah, che ha spopolato e che... La conosco ma non l'ho vista. Probabilmente molti dei nostri ascoltatori conosceranno. Comunque lui è in realtà Giancarlo Esposito. Perché ci interessa? Perché ha grande successo, suo padre è napoletano, proprio ieri, Deborah, tu eri a Napoli. Esatto. E lui proprio ieri era a Roma, non vi siete incontrati perché in occasione della presentazione del film recentemente presentato anche a Cannes, il nostro amico ha dichiarato di essere stato vegetariano per 10 anni e di essere vegano da 2, quindi di nuovo anche sempre più VIP cambiano stile alimentare, si orientano verso scelte o vegetariane o vegane. Quindi noi abbiamo preso così l'occasione, la palla al balzo, per tornare a parlare di stili alimentari. E quindi 800 24 00 24, visto che già sono arrivate le domande, ma le linee sono aperte a vegani, vegetariani, flextariani, onnivori, carnivori, crudisti. Mi sto sicuramente dimenticando di qualcuno, ma chi non è stato chiamato all'appello non si sente escluso, per carità. Anzi, ci dica la sua. 800 24 00 24. Chi siete? Cosa fate? Cosa e come mangiate? Naturalmente, come state? Vi sentite appagati, in forma, carichi? Oppure un pochino stanchi, senza energia? E soprattutto, cari amici, mi piacerebbe sapere se per voi, con tutti questi aggiustamenti alla dieta, il momento del pasto è un momento piacevole, gustoso, vi sedete a tavola contenti, con fame, ma anche sapendo che la soddisferete in modo piacevole, oppure, insomma, è un momento che aggiunge qualità di vita, perché no? Oppure qualcosa che sa da fare, perché come diceva la mia nonna Candida, che è diventato un che po' il nostro, mito, che è il nostro mito, l'abbiamo scoperto che era zen in tempi non sospetti, sa chi vuoti in piedi non ce ne stanno. Allora, ho chiesto tutto, o probabilmente c'è dell'altro. Buongiorno dottore Erzegovesi, buongiorno, bentornato. Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Lei è medico e al San Raffaele si occupa di alimentazione, di comportamenti alimentari e cura proprio attraverso il cibo chi ha problemi di cibo. Io ho inondato di domande i nostri ascoltatori, un po' perché sono curiosa, ma anche perché attraverso il cibo noi possiamo anche raccogliere tante informazioni su di noi che magari ci sfuggono. Io credo che sia un esercizio che oggi possiamo fare insieme, considerando che il nostro stile alimentare può cambiare anche in relazione a delle nostre condizioni, degli nostri stati emotivi. Ad esempio, siamo preoccupati, innamorati, stressati, stanchi, probabilmente la nostra nostra dieta cambia. Oppure ci sono delle fasi della vita in cui per piacere o per dovere predileggiamo alcuni alimenti a discapito degli altri, o ancora, magari per ragioni etiche, filosofiche e religiose, decidiamo di riformulare la nostra dieta per renderla più vicina e coerente con i nostri principi. Insomma, tante teste, tanti modi, tanti stili. Dottor Erzegovesi, ho bisogno che lei ci faccia un po' da cappellino introduttivo. Certo, ma dimmi come mangi, ti dirò chi sei. Potremmo dire dimmi cosa hai nel frigorifero e ti dirò chi sei. Il cibo ci può dare sicuramente salute, ci può togliere salute, quindi tutta l'area del salutismo è importantissima, ma ricordiamoci che il cibo è prima di tutto il nostro primo regolatore emotivo. Noi nasciamo e con tutto quello che può essere il momento della nascita, l'attaccamento al seno e quindi il nutrimento rappresenta un'esperienza di contatto che ci lascia il segno per il resto della nostra vita. Tutto quello che può essere nella nostra vita un momento di stress o di difficoltà nello stabilire contatti emotivi, il cibo può essere usato e mangiandone troppo, e mangiandone male, e mangiandone troppo poco. Quindi assolutamente tutti gli aspetti che diceva rispetto al stanco, stressato, come mi sveglio la mattina e tutto il resto sono in grande parte, seppur non solo, legati a come mangiamo. Ricordiamoci il collegamento in due direzioni, ovvero il mio stato emotivo sicuramente influenza come mangio, ma i dati sono sempre più belli e sempre più importanti anche come dati scientifici, il modo in cui io mangio influenza il mio stato emotivo e quindi insomma consideriamo entrambi i collegamenti. Cosa mangiate? Che dieta seguite? Quali rinunce, aggiunte, cambiamenti, integrazione avete fatto alla vostra dieta e perché? E soprattutto con quali risultati? Questo è un po' il tema su cui discuteremo oggi. Dottor Erzegovesi, è indubbio che in questi ultimi anni c'è la tendenza a togliere più che aggiungere alimenti senza glutine, alimenti senza zucchero, senza lievito. A volte a togliere si guadagna, in altri casi si rischia. È d'accordo? Vuole farci degli esempi? Lei che dice? Ma ci sono queste immagini terrifiche del glutine come una specie di blob fluido che uccide, che così tempesta, il mostro che tempesta i nostri intestini. Il glutine è il componente del frumento, quindi il componente di buona parte della nostra alimentazione mediterranea. Verissimo che se noi siamo intolleranti, sensibili e quindi abbiamo una malattia, che però non ci decidiamo da soli o andando su internet, ma la decidiamo andando da un medico che ci fa la diagnosi, sicuramente abbiamo la celiachia, abbiamo un disturbo di questo tipo, il glutine sicuramente va tolto. Lo zucchero, altro demone, attenzione, lo zucchero, sicuramente l'eccesso di zucchero fa male, non c'è dubbio, l'eccesso di zucchero raffinato fa male, ma a volte ci sono delle proposte di zuccheri alternativi apparentemente più naturali, per cui non so, il succo di mela concentrato piuttosto che lo sciroppo di glucosio fruttosio da mais biologico o tutta una serie di altre cose che hanno assolutamente gli stessi effetti dello zucchero, perché nello stesso modo lo zucchero hanno un indice glicemico molto alto, quindi molto rapidi ad essere assorbiti. A volte le nostre scelte però non rispecchiano esattamente quello che pensiamo o sentiamo, quindi non sono, come si dice, pensate, ragionate, come diciamo con Deborah, maturate, ma a volte condizionate anche dalla moda e dal marketing. Va bene anche così, però l'importante è esserne consapevoli. Chi ci segue in diretta Facebook vede che insieme al dottor Erzegovesi c'è un altro uomo nel nostro studio, il dottor Luca Boledo, naturopata, buongiorno. Buongiorno. Nutrizionista, esperto di salute naturale. Ho sintetizzato all'eccesso, ma questo è un po' il pensiero che sta alla base del suo libro, che dal titolo No Vegan sembra molto provocatorio, ma diciamo subito che lei viene in pace, dottora Boledo. È vero, il titolo è molto forte e ci tengo subito a precisare che non è un libro contro i vegani. Ecco. Questo perché devo dare la linea al GR, ma voglio presentare la prossima ospite. Non è un libro contro i vegani e noi abbiamo in linea con noi la dottoressa Goggi, che è medico presso l'ospedale Sacco e specializzante in scienze dell'alimentazione presso l'Università degli Studi di Milano, che ha fatto una scelta vegana. Ci saluti, dottoressa Goggi, che poi riprendiamo dopo il GR. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, allora andiamo a sentire il nostro GR, ritorniamo insieme, gli ospiti ve li ho presentati, mancate voi, 800 24 00 24, che siete i veri ospiti della nostra trasmissione. A tra poco. Cuore e denari. Dai, c'è anche posto per voi. Noi abbiamo già aggiunto due posti. Abbiamo già apparecchiato tutto nel nostro studio, perché abbiamo Stefano Arzegovesi, che ormai conoscete, medico, specialista in scienza dell'alimentazione, psichiatra, lavora al San Raffaele, dirige un centro sui disturbi del comportamento alimentare. Abbiamo in linea, ma è come se fosse qua, Silvia Goggi. Ribuongiorno, dottoressa Goggi, medico. Buongiorno, presso Nicoletta, buongiorno. L'ospedale Sacco. Buongiorno. L'abbiamo invitata perché vogliamo parlare anche con lei della sua scelta vegana. Mi piace più descrivere la scelta vegana come lei suggerisce: seguo un'alimentazione senza prodotti di derivazione animale, è corretto? Le piace? Sì, perché di solito questa definizione sta più simpatica. Se uno coesordisce subito dicendo sono vegano, la persona, l'interlocutore alza un attimo magari un muro, quindi mi piace questa perifrasi. Ha visto? Ecco, l'ho rintracciata da una sua intervista proprio qua a Cuore Denari. Abbiamo in studio invece con noi il dottor Luca Voledo, che, come vi ho anticipato, ha appena pubblicato un libro, No Vegan. Un libro, dottora Voledo, in cui non se la prende naturalmente con le persone che hanno un'alimentazione senza prodotti di derivazione animale, ma hanno tutto il diritto di mangiare come preferiscono. Il libro è un no alla disinformazione che spesso ruota intorno alla dieta vegana, una disinformazione che porta a interpretare male alcuni aspetti scientifici, a deformarli, a demonizzare cibi che sono perfettamente sani come la carne, il pesce, le uova, i prodotti lattiero-caseari, che se consumati con equilibrio sono sani e nutrienti. È una comunicazione che di fatto instilla un po' nell'opinione pubblica la paura di malattie molto gravi come il cancro, i disturbi cardiovascolari, il diabete, se si consumano cibi di provenienza animale. Questo è scorretto, e il no è un no a questo tipo di comunicazione, quindi alla propaganda spacciata per educazione alimentare. Come definirebbe il suo stile alimentare, dottora Voledo? No vegan? Sicuro. Da onnivoro consapevole. Onnivoro consapevole. Un commento del nostro dottore Arzegovesi. Sì, io sono 7 giorni vegano, no, 7 pasti vegano, 4 pasti vegetariano e 3 pasti onnivoro, quindi credo onnivoro consapevole in qualche modo. Quindi un mix. Invece la dottoressa Goggi ha scelto di eliminare dalla sua alimentazione prodotti di derivazione animale. Che cosa l'ha spinta, dottoressa Goggi? E poi mi interessa sapere, anche lei è un medico, quindi conosce bene, naturalmente è adeguatamente informata, tra l'altro si sta specializzando proprio in scienze dell'alimentazione. Che cosa l'ha spinta a fare questa scelta? Da quanto tempo segue questa dieta? Perché, e poi se, come il protagonista, come Esposito ha raccontato, anche lei ha avuto un passaggio dall'alimentazione vegetariana a quella vegana, che è abbastanza frequente. Dottoressa. Sì, in realtà è stato proprio così, perché allora già dal 2011 non mangio più la carne, diciamo, dopo essere venuta un po' a conoscenza dell'impatto ambientale, mi ha molto sensibilizzato questo argomento. Poi mio marito è un grandissimo amante degli animali, mi ha trasmesso questa sensibilità, quindi poco prima che rimanessi, diciamo, incinta della prima figlia, siamo diventati entrambi vegetariani, e poi dopo il passaggio è avvenuto dopo circa 1 anno e mezzo, 2, quindi una cosa graduale. Ecco, mi piace questa, ecco, aggiunto graduale. Bisogna, il passaggio deve essere graduale, consapevole e soprattutto informato, dottoressa Goggi. Cioè, in realtà può essere graduale o può essere dal giorno alla notte, l'importante è che sia consapevole. Ecco, ognuno poi sceglie la strada che più gli aggrada, non è nel senso, può essere sia graduale che quasi improvvisa. Ecco, l'importante è che in entrambi i casi ci sia una conoscenza dei gruppi alimentari alla base e di come alimentarsi. Questo peraltro in tutta la popolazione dovrebbe esserci la consapevolezza di come alimentarsi. Al di là delle scelte. Allora abbiamo Pietro da Brescia, Laura da Palermo, Maria da Roma. Facciamo, come si dice? Un'infornata. Un'infornata a proposito di alimentazione. Esatto. Allora, iniziamo con Pietro da Brescia. Che è un raccomandato. È un raccomandato, nostro tesorone. Ciao Pietro. Pronto, mi sentite? Sì, eccolo qua, eccolo buongiorno. Sì, buongiorno. Ti mancava Nicoletta, eh? Sì, Nicoletta, ma Deborah, perché Nicoletta l'ho vista ieri, Deborah da un po' di tempo, quindi mi sembra giusto. Però, e volevo appunto rendervi partecipe della mia esperienza, anche se Deborah mi conosce, Nicoletta un po' di meno. Ho iniziato questo tipo di alimentazione vegetariana, non ancora vegana, nel 1998, mi ricordo anche il giorno, era il 30 novembre. Mm-hmm. Ed è stata una scelta consapevole dal giorno alla notte, come diceva la dottoressa prima, nel senso che Galeotto fu un libro, vegetarianesimo dell'edizione Segna, mi sono documentato prima, quindi diciamo è stata una scelta dovuta a motivi ambientali, fisiologici, sì, spirituali, etici. Quindi, etici anche, esatto. Che cosa ti manca della dieta mediterranea o della dieta onnivora? Dite la verità, che cosa, qual è? C'è qualcosa che dici, vabbè, non ci rinuncio perché, ma mi manca? No, sinceramente nulla. Ogni tanto, no, nulla, perché ho forse certi odori, però è una questione di memoria storica, come il pollastrino ai ferri, che era poi possiamo annusarlo se poi le papille, cioè stima le papille, però abbiamo un'antica memoria, ma poi per il resto si no, può mangiare con gran qualità. Sì, tra l'altro sono donatore Avis, quindi anche da questo punto di vista non ho problemi neanche di ferritina, eccetera. Se, ecco, ci vuole anche un libraio straordinario, ma infatti volevo dire, non gli possiamo neanche regalare il libro perché lui no, ha la libreria, quindi hai il libro di Luca Boledo, No Vegan, nella tua libreria di Brescia, la Fenice. Dovrei averlo, sì, ecco, dovrei averlo, anche perché ci teniamo molto che le persone siano consapevoli e arrivino senza fanatismo a fare questo tipo di scelta vegana, vegetariana, oppure rimangano onnivori, cioè con moderazione, perché la scienza naturalmente ogni giorno attraverso le statistiche, attraverso ricerche dà sempre nuovi dati e quindi ci vuole consapevolezza anche nel sapersi alimentare. Boledo, io poi sì, scusa Pietro, il vostro programma. Bravo, sì, bravo, infatti sei bello, simpatico, intelligente, eccetera eccetera. Grazie Pietro. Dottora Boledo, che bell'approccio, questo è l'approccio giusto, quello appunto che qualunque scelta alimentare è corretta volendo da un punto di vista ideologico, etico, qualunque scelta va benissimo. Quello che sarebbe l'ideale è che sia una scelta fatta in maniera consapevole, perché e soprattutto basata su informazioni reali e non di parte, perché senza corretta informazione non c'è vera libertà di scelta. Una domanda sia al dottor Arzogovesi che alla dottoressa Goggi. Parto dalla dottoressa Goggi. Dottoressa Goggi, secondo lei quali sono delle informazioni sulla dieta vegetariana o dieta vegana che potrebbero essere mal interpretate o dare adito a dei comportamenti non corretti, perché magari nella loro complessità richiedono una lettura particolare? Allora, sicuramente l'errore che si può fare quando si passa questo tipo di dieta è quello di non considerare la vitamina B12. Questo sicuramente, diciamo, fa una pessima pubblicità sia nel caso dei vegetariani, che alla lunga è stato visto in letteratura vanno in carenza, quindi necessitano ugualmente di supplementazione, sia dei vegani. Purtroppo circolano delle informazioni completamente sbagliate, tipo che il nostro corpo la produca, che ci sia nelle alghe, che basti mangiare la frutta non lavata, e quindi ad esempio questa è un'informazione proprio da internet di ecco, livello, e noi ecco, oggi proprio vogliamo fare anche un po' questo. In questa chiacchierata ci siamo seduti intorno ad un tavolo perché, dottor Arzogovesi, nel rispetto delle scelte alimentari, vogliamo naturalmente anche dare un occhio, più che un occhio, alla nostra salute, al nostro benessere, al nostro equilibrio. Che cosa potrebbe invece della dieta cosiddetta onnivora essere mal interpretato e quindi far cadere in eventuali errori che producono carenze dal punto di vista nutrizionale? Ma io consiglio sempre ai miei pazienti: ascoltatevi quando vi alzate la mattina, cioè esiste una sensazione, una che è fondamentalmente la verità del corpo, che è il nostro livello energetico al risveglio, che vuol dire ancora non abbiamo iniziato. Chiesto bene e chiesto soprattutto con una persona che abbia l'onestà intellettuale di riconoscere come realmente si sente, che quindi abbia accesso alle sue sensazioni e non che sposi invece un dogma. Allora, se uno sposa un dogma, può essere di colorito grigiastro, sottopeso, francamente senza forze, dire che sta benissimo. Una persona onesta con se stessa, che si alza la mattina e ha la sensazione di avere delle difficoltà energetiche deve domandarsi qualcosa su come sta mangiando. Potrà essere che sta mangiando un'alimentazione troppo restrittiva, perché ad esempio un'alimentazione vegana che per lui in quel momento non va bene, o che non sta seguendo bene con le giuste integrazioni, come dice la dottoressa, ma può essere benissimo che una persona che segue un'alimentazione tipo americana, che è piena di proteine animali che sono assolutamente tossiche, soprattutto se sono le proteine da allevamenti intensivi, e che quindi ugualmente se si alza la mattina si sentirà con la bocca cattiva, con la testa che non va bene, e soprattutto con un pensiero, pensiamo anche a livello energetico mentale, se ci svegliamo bene dobbiamo avere un pensiero molto lineare, focalizzato, e non con la sensazione di dover fare fatica ogni volta che ci concentriamo su un pensiero, su un concetto. No, questa del pensiero lineare non te l'aspettavi? Mi fa riflettere. Stai pensando molto a te quando ti alzi. Sai che noi apriamo un discorso, ne chiudiamo, ne apriamo 18.000, facciamo apro tutte le nostre parentesi. Appena mi alzo, ecco quello che faccio. Quindi sono linearissima nel mio pensiero, dritta in cucina, dritta alla caffettiera. Maria da Roma, e poi andiamo, ci stiamo poi avvicinando a Laura da Palermo. Maria, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Eccoci. Vi chiederei di aiutarmi perché non sono pratica nella gestione della radio. No, ma no, perfetta così, ha un talento naturale. Maria parla al telefono e voilà, è con noi. Ok, buongiorno, come state? Bene, ci siamo alzati bene e stiamo pensando se il nostro stile alimentare è adeguato per farci stare bene e continuare a farci stare bene. Arrivi alla sua domanda, grazie. È quello che penso anche io, perché io circa 11, 12, forse anche di più anni fa ho modificato l'approccio al cibo perché alzandomi dal letto al mattino mi sentivo come se un camion mi fosse passato addosso. E allora ho pensato, la mia età non prevede questa sensazione e quindi un po' mi sono informata, un po' io insegno scienze motorie, quindi degli studi li avevo già fatti di alimentazione, ho fatto un approccio alimentare un po' alternativo, ho cominciato a lavorare su una riduzione degli alimenti iperglicemizzanti. E da lì mi è cambiato tutto, cioè il livello energetico è assolutamente migliorato e questo ha fatto buon gioco anche. Quindi ha eliminato, ho ridotto gli alimenti ad alto indice glicemico che il dottor Avoledo ci aiuta un po' rapidamente a ripassare, quindi il riso bianco, il pane, il riso, i dolci, le farine raffinate, tutti i cibi che hanno un impatto molto forte sulla glicemia, la innalzano, e alzare la glicemia e di conseguenza l'insulina è una cosa che si è visto che non va bene, quanto più tiene stabile e meglio è. Dottoressa Goggi, le piace questa scelta? Ha fatto bene? E soprattutto secondo lei è stata la riduzione o l'eliminazione di questi alimenti ad alto indice glicemico che ha prodotto un aumento dell'energia alla nostra amica Maria? Eh sì, perché questi picchi glicemici e di insulina provocano degli sbalzi di glicemia che possono, quando sono verso il basso, dare questo senso di stanchezza e di profonda debolezza, quindi sicuramente il non avere picchi glicemici è una raccomandazione che è valida per tutti, cioè preferire, come dicevamo prima, anche da onnivoro consapevole le cereali integrali, farina integrale, ed evitare i dolci se non diciamo occasionalmente è sicuramente un'ottima scelta, indipendentemente da quello che mangia per il resto. Laura, finalmente arriviamo a lei e ci mangiamo una buona arancina o arancino, non mi ricordo. Le dirò, sì, a Palermo si dice arancina, ma io vivo in Inghilterra, anche se sono in vacanza momentaneamente a Palermo, e vorrei testimoniarle velocemente la mia scelta consapevole di mantenere la buona e sana il patrimonio dell'umanità dieta mediterranea anche in quel paese anglosassone dove c'è un tipo di alimentazione ricco di grassi saturi, di proteine animali e che determina a mio parere un'eccedenza di peso soprattutto nei giovanissimi. Quindi io acquisto l'olio extravergine di oliva, mangio la pasta, mangio il pesce, certo non mangio pesce azzurro, mangio però quando torna bisogna tornare a casa. Ma lei ha detto una assoluta verità che è confermata, dottor Erzegovesi, dalla scienza, perché la dieta mediterranea nella sua formula originaria ha effetti positivi sulle malattie neurodegenerative, metaboliche, cardiovascolari. particolari, perché proprio in funzione del suo ruolo antiossidante e antinfiammatorio protegge la salute generale. E quindi quello che ci sta raccontando la nostra amica, utilizza l'olio extravergine d'oliva, anche in Inghilterra si porta la buona cucina mediterranea, lo stile alimentare mediterraneo, da cui noi ci stiamo un po' allontanando. Ma dottore Zegovesi, sì, la dieta mediterranea giustamente è un patrimonio, però attenzione, c'è molta disinformazione anche sulla dieta mediterranea, che a volte si collega a grandi piatti di pasta, piuttosto a grandi piatti di pasta col vino rosso. La dieta mediterranea è fondamentalmente, prima di tutto, una dieta che ha un'alta componente vegetale, per cui si mangiano ortaggi e si mangiano ortaggi in abbondanza. Si mangiano ortaggi in abbondanza, si mangia un'alimentazione bilanciata per quelli che sono cereali integrali, legumi, per quello che sono proteine animali di qualità. Soprattutto viene posto l'accento nella Mediterranea sulle proteine del pesce, pesci anche piccoli, quindi pesce azzurro, molluschi e crostacei. Il vino rosso, secondo me, non è assolutamente necessario, se ci piace beviamolo, ma non è una medicina in alcun modo. Questa dieta mediterranea... Però, un po' di vino rosso ci vuole. Ma va bene, però non consideriamo una medicina, cioè se ci piace però, beviamolo. Anche il cuore è contento, non tanto, giusto? Ci soddisfa, ci dà una buona sensazione, però in questo senso consideriamolo un alimento a tutti gli effetti, quindi non una medicina più o meno salutare. Su questa base l'alimentazione mediterranea va benissimo, però attenzione, l'alimentazione mediterranea va bene in climi che sono comunque climi temperati. Se io vivo dove ci sono temperature estreme, tipicamente temperature molto molto fredde, ben venga che ci siano i grassi saturi. Se un eschimese mangiasse una dieta mediterranea probabilmente morirebbe di freddo, e quindi da questo punto di vista ricordiamoci sempre che la prima domanda che dobbiamo farci è: cosa serve a noi per la vita che stiamo facendo in questo momento? Allora Maurizio, lei la stai leggendo anche tu il messaggio di Maurizio? Sì. Se si segue una dieta vegana per scelta, ok, ma se la scelta è per rispettare gli animali, ricordo che gli alimenti per animali contengono carne di pollo, coniglio, pesce, diffuso, ma anche l'insalata prima di essere cotta viva. Allora, vabbè, buona giornata, mi la fai venire in mente crozza. Dottoressa Goggi, sicuramente una domanda di questo tipo lei se la sarà sentita porre. Sì, e cosa parecchie dice? Volte. Allora, la risposta che do è che comunque le piante non posseggono un sistema nervoso strutturato come quello degli animali, e quindi diciamo quando mi viene posta una domanda del genere mi sento, diciamo, non dico offesa, per carità, però non, secondo me non si possono paragonare le due cose, la sofferenza di un animale. Noi abbiamo, a proposito di piante, fatto una bella puntata con il professor Mancuso proprio fa, sì. Sull'intelligenza verde. Allora, siamo alle ultime battute prima dei mercati e poi del secondo tema, in cui parleremo di ape, che non è l'aperitivo, ma l'ape sociale. Non è quella che si posa sui fiori, eccetera. Esatto. Allora, io chiederei, per concludere proprio questa nostra chiacchierata, in cui abbiamo messo così, abbiamo discusso delle nostre scelte alimentari, sottolineando l'importanza non solo della consapevolezza ma dell'informazione, di chiedere ai nostri amici di chiudere con una ricetta che rappresenti un po' il loro stile alimentare. Posso giocare su questo perché il dottor Avoledo sul suo sito fa anche delle ricette straordinarie, Stefano Erzegovesi cura con il cibo ed è un ottimo cuoco, la dottoressa Goggi sono sicura batterà tutti perché è anche mamma, quindi insomma anche questa marcetta in più. Partiamo dal no vegan, che non è no vegan, ma attenzione, che vegan sia, ma no, chi vuole essere vegan sia, ma lasci, fa fare altrettanto agli altri, le scelte libere sono libere per tutti. Io ricette senz'altro potremmo parlare in tante occasioni, l'abbiamo fatto tante volte qui, oggi vorrei però lasciarvi con un messaggio per me particolarmente importante, ovvero ci terrei a dire che nell'alimentazione quotidiana le proteine animali hanno un significato per chi vuole mangiarle, se uno non vuole mangiarle può farlo serenamente, ma non esiste nessuna ragione scientificamente fondata per eliminare la carne dalla dieta e men che meno tutte le proteine animali. La carne va mangiata in maniera equilibrata, consapevole, e tra uso e abuso c'è una grande quindi differenza. Quindi non è un problema se mangiarla è una cosa di scelta, ma se uno la mangia è un problema di quantità. Quindi immagino che la ricetta che lei ci lascerà adesso, non potrà descriverla, saranno le polpettine di Luca Avoledo. Dottore Erzegovesi, vengo da lei e chiudo in bellezza con Silvia Goggi. Direi il piatto che stiamo proponendo in questo momento ai nostri pazienti che curiamo per l'obesità è un'insalata di orzo decorticato, un'insalata fredda con una purea di fagioli cannellini con i semi di Iowan, che è un seme molto simpatico che sta tra il finocchietto e il timo. Ma devo andare in pellegrinaggio a comprarlo? No, lo trovo un anche un negozio di alimenti etnici, tranquillamente. Okay. Con degli spaghetti di zucchine alla scapece, che sono un taglio fine delle zucchine scottate in padella con menta e un pochino aceto di riso, e con qualche goccia di un'emulsione di aceto di riso extravergine d'oliva. Ma perché non ne ha portato uno scartoccino? Cioè, la ricetta ce la mette, la ricetta la mette, ce la regala, la mettiamo sulla pagina. Silvia Goggi. Anch'io voglio poi andare a vedere la ricetta del dottor Ercegovesi, che sembra buonissima. Allora, io vi in 30 secondi il mio purè di fave con cicoria, che è un piatto naturalmente vegano già della tradizione italiana, velocissimo da fare, basta far appassire le fave in acqua con dello scalogno e un po' d'olio e poi sbollentare la cicoria, ripassarla in padella con aglio e peperoncino. E mi piace molto perché racchiude, diciamo, tre nutrienti come il calcio nella cicoria, il ferro e le proteine nelle fave, che sembra che siano, diciamo, difficili da raggiungere una dieta vegana, quindi mi sembra il piatto più rappresentativo. Ottimo. Grazie, e poi uno mangia alla Puglia. Esatto, infatti, il trionfo della Puglia. Allora, noi chiudiamo, ci manca la ricetta delle polpettine di Luca Valedo, che ce la ci porterà. Grazie alla dottoressa Goggi, a Stefano Ercegovesi, che ricordo siamo oggi sul video sul sito del Sole, perché con il dottor Ercegovesi abbiamo il protagonista di uno dei video che abbiamo chiamato Più cuore che denari. Per cui, se volete andare, io scappo perché ho già rubato un minuto a Deborina, ma abbiamo dato tante ricettine. Grazie. Grazie a voi. Mercati, grazie. Affamati mercati? Un po' sì, stamattina. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Dove eravamo rimasti? Adesso lo scopriamo. Dopo aver parlato ieri di pensioni, della quattordicesima che arriverà qualche pensionato in più rispetto agli anni passati, oggi torniamo sul tema per darvi qualche dettaglio in più invece sulla partenza di un'altra grande ed importante operazione, l'APE sociale, perché è stato pubblicato alla fine della scorsa settimana sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene il regolamento di attuazione dell'anticipo pensionistico destinato in questa prima fase a determinate categorie di lavori, di lavoratori, con requisiti molto specifici. Il tutto in attesa che parta invece la cosiddetta APE ordinaria, l'anticipo pensionistico ordinario. Insieme alla pubblicazione in Gazzetta del decreto, l'INPS ha anche pubblicato una circolare, la numero 100 del 16 giugno, con tutte le indicazioni e tutte le informazioni che hanno resa immediatamente operativa l'applicazione per la trasmissione telematica delle domande. Allora, per fare un riepilogo sui requisiti necessari per accedere a questo trattamento, oggi abbiamo interpellato la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che ha pubblicato un'analisi approfondita, molto dettagliata sulle caratteristiche ma anche sulle criticità di questo nuovo strumento a sostegno del reddito. L'autore del lavoro di questo studio è il dottor Antonello Orlando, che è in linea con noi questa mattina, che salutiamo. Buongiorno, ben trovato a Cuore Denari. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sappia che ci sono già delle domande da parte degli ascoltatori all'800 24 00 24. C'è qualcuno che ancora ha il dubbio di avere o meno i requisiti per poter aderire a questa prima operazione. Allora, naturalmente tutti gli altri possono intervenire all'800 24 00 24. Andiamo anche a qualche dato dell'INPS, che giorno per giorno aggiorna appunto sulle persone che stanno facendo richiesta di accesso al trattamento per l'APE sociale. Alle 18 di lunedì 19 giugno risultavano presentate 5.386 domande di riconoscimento. Magari a quest'ora saranno diventate, che ne so, 5.500. Dottor Orlando, dalla norma iniziale prevista dall'ultima legge di bilancio all'attuazione ci sono voluti diversi mesi prima di far decollare l'impianto dell'anticipo pensionistico. Per ora si parte, come dicevo, con quello sociale, che per dirla nel linguaggio INPS è Un'indennità è riconosciuta fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. È una sorta di assegno ponte. Sono stati tutti risolti gli intoppi che ne hanno ritardato la partenza? Allora, gli intoppi sono stati dovuti diciamo anche al dialogo fra tutti i vari enti istituzionali che, come immaginate, sono coinvolti per poter fare partire qualcosa che è una risposta alla riforma delle pensioni che ormai tutti gli italiani stanno imparando faticosamente a digerire dalla fine del 2011. Quindi abbiamo avuto il primo step della legge di stabilità che ha poi istituito una timetable che, come giustamente ricordavate, non è esattamente stata rispettata al centesimo, in quanto questo DPCM che è stato firmato il 22 maggio dal Presidente del Consiglio e pubblicato la scorsa settimana, in realtà doveva apparire, pensi un po', i primi di marzo. Quindi è chiaro che i disagi sono stati una serie di ritardi a cascata, possiamo chiamarli in questo modo, quindi lunghi tempi tecnici che, a mio avviso, avviso della Fondazione Studi e quello che abbiamo anche sottolineato un po' nell'analisi, sono dovuti alla corretta definizione della platea dei beneficiari, perché la legge originaria aveva disegnato quattro tipi soprattutto di beneficiari considerati in condizioni di disagio, di lavoratori, ma andava poi normata nel dettaglio questo identikit, diciamo così. E quello che è successo è che la prima volta che una bozza di DPCM è stata licenziata al Consiglio dei Ministri, cosa che è avvenuta il 18 aprile, purtroppo l'esame del Consiglio di Stato, che è stato molto veloce perché in realtà in 10 giorni ha restituito un parere, ha giudicato quel primo identikit, per dirla in modo molto pratico, non rispondente a tutti i crismi normativi che nella Repubblica Italiana sono necessari. Quindi poi ci sono tornati mille volte, però al momento finalmente la platea ce l'abbiamo e adesso andremo anche a definirla nel dettaglio, però c'è un altro aspetto importante da ricordare che va sottolineato, dottor Orlando, è che contrariamente all'APE volontaria e a quella aziendale, che non sono ancora partite, l'assegno sociale contemplato dall'APE, appunto sociale, è completamente a carico dello Stato. Non c'è alcun coinvolgimento degli istituti di credito ed assicurativi, protagonisti invece delle altre due forme di assegno pensionistico. Dico bene, almeno questo è un aspetto chiaro? Direi che dice benissimo, ha sintetizzato in modo egregio, è proprio così. Rispetto a tutte le forme che sono state partorite dalla legge di stabilità del 2017, l'APE sociale è quella a costo zero per chi la richiede, è l'unica forma che è veramente a costo zero. Gli altri due strumenti, in realtà, se vuole ne tiro fuori pure un terzo che non è un'APE ma si chiama RITA, e quello è finanziato dalla previdenza complementare. Ecco, questi qui sono in qualche modo, c'è sempre qualcuno che paga e sono soggetti privati, e sono, nel caso dell'APE volontario, poi ha un sacco di nomi, APE di mercato, APE privato, lo può chiamare come vuole, ma è sempre lo stesso, è quello che in buona sostanza pagheranno i contribuenti quando riusciremo a mettere le mani su questo DPCM, che è un po' in stato fantasma, ancora in e poi abbiamo, quindi questo è tutto pagato di tasca dai cittadini privati, con un intervento, ecco, questo probabilmente può essere utile solo fare una piccola puntualizzazione, che spesso poi nel riassumere questi strumenti non riceve abbastanza visibilità, non è completamente a carico dei privati, perché lo Stato ci metterà, diciamo così, un piccolo bonus, un credito d'imposta che dimezzerà le spese di natura finanziaria e creditizia, perché, come ricordava, lì c'entrano le banche, il prestito è materialmente erogato dalle banche, su cui si pagheranno degli interessi naturalmente, su cui verrà fatta anche un'assicurazione nel caso in cui il sottoscrittore insomma dovesse avere qualche qualcuno che poi rimborsi questo prestito, ci deve essere, per cui è un'operazione abbastanza complessa. Detto questo, siccome non ce l'abbiamo ancora, dottor Orlando, adesso aspettiamo di avere tutto l'impianto normativo per poterne parlare, anche se qualche molto spesso abbiamo anche noi detto la nostra, che non ci sbilanciamo tanto su commenti rispetto a determinate operazioni, ma questa, insomma, questo ponte, questo prestito ponte per finanziare la pensione, in realtà lo guardiamo con un po' di perplessità, perché secondo me non si capisce bene, cioè magari una persona emotivamente parlando non vede l'ora di andare in pensione, aderisce all'operazione e non sa che poi quel prestito lo deve restituire quando maturerà i requisiti per l'assegno pensionistico. Per ben 20 anni, ecco, peraltro, esatto. Quindi è una bella scelta, assolutamente. Benissimo. Ragione. Detto questo, andiamo invece, ritorniamo all'operazione già partita e per la quale si stanno già inoltrando all'INPS le domande di riconoscimento. L'APE sociale, quali sono? Sì, allora, sono le 11:44, in un minuto ce la facciamo. Quali sono i beneficiari, i potenziali beneficiari? Allora, innanzitutto, primo requisito anagrafico, bisogna avere 63 anni. Quando bisogna compierli? Non oltre il 31 dicembre del 2018. Al momento della richiesta bisognerà avere cessato un'attività lavorativa, bisogna avere un'anzianità contributiva, in questo buone notizie che ci sono state finalmente date dalla circolare che lei citava, quella che è uscita contestualmente al decreto, 30 o 36 anni di contributi in tutte le gestioni dell'INPS, quindi può essere quella dei lavoratori privati, dei lavoratori pubblici, degli autonomi, questa è, diciamo, un'ottima notizia. E poi è importante ricordare che non si potrà godere dell'APE se nel frattempo si sta godendo di indennità a sostegno del reddito, pensiamo alla disoccupazione. Un altro ammortizzatore sociale, sì. Bisogna essere residenti in Italia, questo è un punto che è stato espressamente chiarito dall'INPS, e quando si cambiasse la residenza, anche una volta ottenuto l'APE sociale, ne si perderà il diritto, questo è un altro punto importante da ricordare. Poi bisogna avere, oltre questi requisiti che le snocciolavo, sicuramente non bisogna avere già una pensione, ma questo mi sembra abbastanza assodato. Ovvio, chi rincorre l'APE, che qualcuno fa la richiesta, insomma, nel caso avesse l'idea di poterne avere. Due meglio che una. Certo. Assolutamente. E l'ultimo punto, poi bisogna rientrare in una platea di beneficiari che, diciamo, è in condizioni di bisogno. Quindi abbiamo quei disoccupati che hanno già finito l'indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi, abbiamo coloro che sono portatori di handicap e quindi hanno una ridotta capacità lavorativa che deve essere residua a meno del 25%, o ancora abbiamo anche coloro che assistono i caregiver. Esattamente, sì, ormai questo l'inglese ci aiuta a dire in una questo parola quello che l'italiano ha bisogno di snocciolare con 2 o 3 righe di definizione: coloro che appunto assistono un familiare disabile, che può essere il coniuge, può essere un parente di primo grado convivente, da almeno 6 mesi. Almeno 6 mesi, esattamente. Si fermi lì perché c'è il traffico, su tutto il resto andiamo tra poco. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Quando in pensione io me ne andrò. Allora, migliaia di lavoratori stanno inoltrando la procedura all'INPS per fare richiesta di accesso all'APE sociale, all'assegno pensionistico anticipato di natura sociale, per il quale interviene lo Stato, non negli istituti di credito, in questo passaggio ponte fino al raggiungimento dei requisiti appunto formali per il trattamento pensionistico. Con noi questa mattina consulente del lavoro, il dottor Orlando, che ci sta spiegando come si fa, quali sono le condizioni compatibili e incompatibili con l'APE sociale, ma quanto ammonta l'assegno percepito, come va calcolato, dottor Orlando? Allora, l'assegno percepito è in buona sostanza quella pensione maturata al momento della domanda di APE sociale, che quindi viene calcolata astrattamente dall'INPS e viene definita a seconda di tutte le gestioni INPS in cui il richiedente ha maturato anzianità contributiva. Però c'è un limite, diciamo che se anche la pensione che spetta al soggetto superasse i 1.500 euro lordi al mese, l'APE sociale si ferma a questa soglia. Quindi sono 1.500 euro, mi raccomando, lordi, è una specifica da sottolineare notevolmente, e sono percepiti peraltro per 12 mesi, non c'è la tredicesima mensilità. Possiamo riassumere che gli apisti non festeggiano il Natale, differentemente dai normali pensionati, perché loro non si vedono corrispondere 2 volte l'assegno in occasione di dicembre. No, insomma, è un aspetto importante da specificare, perché magari qualcuno non lo sa, fa richiesta così in maniera era un po' inconsapevole, immaginando di avere tutti i trattamenti esattamente corrispondenti a quelli appunto della platea dei pensionati. Un altro aspetto importante, poi andiamo alle domande degli ascoltatori, dottor Orlando, è che c'è un plafond disponibile da parte dello Stato per soddisfare le domande che saranno presentate. Questo significa che bisogna sbrigarsi a fare la domanda, oppure il governo ha calcolato abbastanza accuratamente, per questo si è preso tutti i mesi di cui parlavamo prima, e ha calcolato appunto con precisione gli aventi diritto e quindi ritiene di aver stanziato una somma sufficiente per accontentare tutti i potenziali richiedenti? Bisogna sbrigarsi, secondo lei, o ce la possiamo prendere con calma per fare 2 calcoli di convenienza? Allora, dal mio punto di vista il consiglio è di sbrigarsi assolutamente, perché al di là del calcolo minuto che è stato sicuramente effettuato da chi ha proposto questa manovra, questa legge, ci sono due grandi scadenze che sono una vicinissima, che è quella del 15 luglio prossimo, e poi chi riesce a maturare i requisiti dell'APE sociale entro la fine del 2017 deve sbrigarsi e inviare a INPS una prima domanda, perché poi se avremo modo ne parleremo, ci sono due domande da fare, la prima, quella più cogente, è la richiesta di certificazione dei requisiti entro il 15 luglio. C'è poi tempo fino al 30 di novembre per la domanda, diciamo, dei ritardatari, con una piccola specifica che credo interesserà gli ascoltatori, vale a dire che ci sono due criteri di priorità con cui verrà elargita questa indennità, l'APE sociale. Il primo, il più importante, è quello di quando si matura l'accesso alla pensione, ma la seconda, quella pensione di vecchiaia, perché ricordiamo che l'APE sociale traghetta verso la pensione di vecchiaia, ma a parità di requisito pensionistico vince chi ha sottomesso prima la domanda. Quindi è uno dei due criteri di assegnazione ed è fondamentale dal nostro punto di vista di consulenti di lavoro sbrigarsi. E questo tra l'altro è un aspetto importante da ricordare, perché si lega al fatto che la modalità di presentazione della domanda è tutto telematica, per cui immaginiamo che questo complichi un pochino le cose, facciamoci aiutare da qualcuno, perché magari metterci lì davanti, anche se abbiamo tutti i PIN dispositivi necessari per poter dialogare con l'INPS, magari non è immediato appunto il completamento di tutta l'istruttoria, per cui forse è il caso di farci aiutare da qualcuno, da un centro di assistenza fiscale, da un patronato in particolar modo, magari anche da un consulente del lavoro. Per tutti i passaggi per ottenere l'APE, Matteo Prioschi del Sole 24 Ore ha pubblicato i 7 più importanti. Allora, così per fare un riepilogo, noi magari faremo circolare questo articolo anche sul nostro profilo Facebook, ci metteremo insieme anche il documento dei consulenti del lavoro elaborato dal dottor Orlando. Intanto un paio di domande dei nostri ascoltatori prima di salutarci. Silvia da Firenze, velocissima, grazie. Sì, velocissima, buongiorno a tutti, grazie. Grazie. Io ho 56 anni quasi e lavoro da 38 anni e mezzo, sono precoce. Però ecco, non capisco, questi lavoratori precoci hanno il diritto di avere questa APE social, però solo se sono disabili, se ho capito bene. Silvia, aspetti lì, dottor Orlando, abbiamo qualche dettaglio in più sul tema del lavoro precoce, che vedo è molto gettonato da molti ascoltatori. Assolutamente, allora in realtà c'è da rimettere un pochino a posto delle idee. Mi rendo conto che la confusione sia naturale, perché questi due DPCM, uno sull'APE sociale e uno sui precoci, sono usciti insieme contemporaneamente anche alle circolari INPS, quindi è avvenuto un pochino un miscuglio di idee. Allora, per tranquillizzare l'ascoltatrice, in realtà la prima grande risposta è che purtroppo di per sé i lavoratori precoci non hanno diritto all'APE sociale. I lavoratori precoci, che la norma definisce come coloro che hanno accantonato almeno 12 mesi di contribuzione prima del compimento dell'età anagrafica di 19 anni e che poi devono rientrare in una delle quattro categorie che prima stavamo enumerando, quindi disoccupati, caregivers, eccetera, devono non hanno il problema dei 63 anni di età, ma hanno quello di dover raggiungere almeno 41 anni di contributi. Quindi, diciamo, sono due cose diverse. Precoci devono anche loro richiedere una certificazione all'istituto, a INPS, ma diciamo che se il problema dell'ascoltatrice era che non aveva raggiunto i 63 anni, non si preoccupi, sicuramente non avrà diritto all'APE sociale, perché i 63 anni vanno compiuti entro il 2018, quindi su questo dobbiamo cassare il suo dubbio. Sulla pensione da precoce, non avendo ancora, se ho capito bene, perfezionato il requisito dei 41 anni, dovrà aspettare 38, quando riesce ad arrivare a questa famosa quota 41, come molti giornalisti l'hanno ribattezzata, diciamo. Quanto è complicata tutta questa faccenda, dottor Orlando, veramente a districarsi anche nelle norme che cambiano continuamente in questo mondo, in particolar modo nel nostro paese, vi rende veramente degli eroi. Per cui complimenti anche per la padronanza che ha dell'argomento. Io le chiedo anche se lei ha voglia e tempo di farlo, naturalmente la sua disponibilità a rispondere ai nostri ascoltatori che in tanti ci stanno chiamando e scrivendo anche a cuore denari@radio24.it, ognuno ognuno ha una situazione diversa, per cui sentirne uno per poter dare delle risposte di carattere generale è molto difficile. In questo caso, con la tema dei lavori precoci, ci siamo riusciti. C'è Franco da Frosinone, io non lo mando in onda perché è un po' lungo, ma è un autista di mezzi pesanti. In quali casi i protagonisti di lavori usuranti, dottor Orlando, possono fare domanda per l'APE sociale? Ce la facciamo in 30 secondi? Anzi, no, 10. No, allora, guardi, le dico questo. In realtà l'ascoltatore dovrà verificare bene come, in che tipo di platea rientra, perché vedo per lui due scenari diversi. Da un lato c'è appunto l'accesso ad APE sociale dei lavori usuranti, ma deve ricordarsi che dovrà verificare, magari suggerisco un consulente del lavoro o un patronato, se rientra nelle quote, in quelle che si chiamano le quote anticipate, per lavoratori usuranti. Quota anagrafica e contributiva. Grazie ad Antonello Orlando per essere stato con noi. Scriveteci, noi intanto torniamo domani. A tutti, buona